Radio 24. Libera la voglia di fare. Franchi, lo so che sono scalatore, ma comunque sei pesante anche te, eh? Facciamo 2-3 ore, dai, guarda che giornata, c'è il sole. Che dici? Namo? Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ultimi secondi di partita, il rilancio di Skorupski, Montella chiede ai suoi di comunque stare avanti, almeno ai suoi 5 giocatori designati. Finisce con qualche secondo d'anticipo, questa volta l'Empoli vince a San Siro, si avvicina sensibilmente alla salvezza. Il Milan invece non riesce ad aumentare il suo vantaggio sull'Inter e ad avvicinarsi all'Europa League, tutto da rifare in un weekend nero per le milanesi. C'è Milano che va col passo del gambero in questa 33esima giornata del campionato di Serie A, in questa domenica che dedichiamo, l'avete sentito, a Michele Scarponi, la cui scomparsa tocca tutti quelli che amano lo sport e non solo il ciclismo, grande campione che ieri ci ha lasciato e che ieri e oggi è stato ricordato su tutti i campi dove si è fatto sport in Italia, perché così è giusto, quando la famiglia dello sport piange la scomparsa di una persona cara e di una persona bella come era Michele Scarponi. Dicevamo, c'è Milano che va con il passo del gambero, ieri la partita tra surreale e ridicolo dell'Inter a Firenze, oggi poteva essere finito tutto, invece il paradosso è che il Milan perde, io credo anche meritatamente, contro l'Empoli e quindi tiene in vita l'Inter, tiene in vita anche la Fiorentina, che a questo punto può legittimamente pensare di poter agganciare quel sesto posto che vale il preliminare di Europa League. Prima di andare a San Siro saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni. Partita del Milan è finita, diamo la notizia a tutti, state tranquilli, 8 minuti di recupero dopo i 7 di sabato scorso nel derby. Gioca sempre un extra time. Sì, si sta sperimentando il tempo effettivo. Oggi potevano giocare un'altra oretta, non avrebbe segnato. Andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci, Dario. Eccoci qua da San Siro, chiaramente qua tutto il programma è in ritardo perché a partire da questo super recupero che ormai, come sottolineavate, è diventata consuetudine, diciamo, questo terzo tempo non previsto da regolamento, quindi fra poco ci raggiunge Arianna Ravelli del Corriere della Sera che sta inviando il suo pezzo e chiederemo anche qualche anticipazione. Intanto la sintesi chiaramente è quella che avete fatto voi, il 2-1 a sorpresa per l'Empoli con la rete di Celizze al 40esimo, poi il calcio di rigore per il Milan fallito da Suso al 54esimo, al 67esimo il 2-0 di Thiam per l'Empoli, al 72esimo e la Padula ad accorciare le distanze, ma insomma un Milan che, e chiedo a questo punto ad Arianna, soprattutto nel primo tempo davvero è stato protagonista di una prestazione sconcertante, direi, un Milan... qualcuno ha parlato di un senso di appagamento, ma non saprei per cosa. Esatto, non si capisce se un pareggio in extremis nel derby può dare un senso di appagamento, direi che c'è qualcosa che non va. Certo è che il Milan deve cominciare anche a giocare il primo tempo, perché concentrarsi sulle rimonte negli ultimi 20 minuti più recupero, e sì che i recuperi sono stati abbondanti sia qua che con il derby, a volte non basta e oggi non è bastato. Poi è successo di tutto nel finale, voglio dire, il Milan poteva segnare, poteva anche prendere il terzo gol perché Donnarumma si è comunque superato. Certo è che, come dicevi tu, l'aspetto proprio più inquietante è stato l'approccio alla gara e i primi, direi, 50 minuti, 60 minuti. Sì, abbondanti, 60 minuti, 60 minuti abbondanti. Sì, ma cosa sta succedendo al Milan? Perché anche il derby, al di là della rimonta finale, tra l'altro indotta credo più dall'atteggiamento guardingo dell'Inter, è come se, ad esempio, la fine delle vicende societarie avesse interrotto qualcosa. Dovrebbe essere il contrario. Non lo so, no? So che Montella aveva chiesto furore perché è alla vigilia e aveva evidentemente capito che questo potesse essere il rischio, cioè di prendere sotto gamba questa partita. Devo dire che è stato aveva previsto i rischi ma non è riuscito a evitarli, però, perché tutto quello che temeva in realtà e poi effettivamente si è realizzato. Se, scusa Arianna, se aveva chiesto furore il risultato è questo. Se aveva chiesto furore il risultato è questo Milan con gli occhi da pesce adesso. Il primo tempo è stato una cosa che non, non ha spiegazioni, ha spiegazioni. Ripeto, l'euforia, si temeva l'euforia, ma se una squadra è euforica per aver, insisto su questo concetto, pareggiato un derby al settimo di recupero, io capisco la felicità da scampato pericolo, però è una felicità da scampato pericolo, cioè non è che hai, non hai vinto e non hai fatto un'impresa, hai scampato il pericolo. Sì, sì. Insomma, io non riesco proprio a capire questo atteggiamento. No, tra l'altro vi do anche due numeri, perché poi è vero che il Milan in questa stagione molto spesso le partite è capace di sistemare negli ultimi minuti, però oggi è andato sotto per primo per la 13ª volta in questa stagione e fin qui ne ha perse 8 di quelle 13. Poi insomma, quando ti costringi a cercare a tutti i costi l'impresa, poi diventa anche complicato, diventa anche difficile, i punti volano via spesso e volentieri. Volevo capire ancora da voi due che siete a San Siro, anche su questo finale, con esattamente come nel derby, con la Padula, Bacca, Suso, Deulofeo, Campos, tutte le punte a disposizione, si è rivisto anche Onda, a proposito di punte, mezze punte gettate in campo, se è una mossa che segue qualche logica da parte di Montella o se siamo al semplice tentativo statistico? Direi che di logica ce n'è ben poca, anche perché questa è una squadra che gioca senza centravanti, ormai è chiaro, il centravanti non serve perché non è previsto negli schemi di gioco. Il povero La Padula, e non lo dico solo povero perché ce l'ho a Fantacalcio, lo ringrazio pubblicamente per questo gol, ma il povero La Padula le poche palle che ha quasi le deve strappare ai compagni, perché sembra proprio che comunque il gioco è delegato ormai a Deulofeo, nel senso che si appoggia il gioco solamente sulla sinistra e poi, bontà sua, Deulofeo, finché non scoppia, riesce a produrre qualcosa con lo straordinario passo di gamba che ha. Ma di fatto poi il centravanti al massimo è usato come specchietto per le allodole, ma per creare uno spazio che poi non viene mai sfruttato. Certo. Ecco, da questo punto di vista, Arianna, non ti chiedo... Non ha neanche i difensori, scusami Dario, mi senti? Il campionato senza aver previsto un gioco per un numero 9. Sì, abbiamo noi dato molte colpe a Bacca, no? Fin qua. Corpo estraneo in questa squadra. Devo dire che concordo abbastanza con te, abbiamo visto all'inizio tre occasioni, tutte e tre fotocopia, con Deulofeu che strappava su quella fascia, palla indietro per Suso che poi è stato oggi meno lucido e meno preciso di altre occasioni. Ecco, il gioco del Milan è questo in questo momento, con questi due interpreti, secondo me oggi meno lucidi, meno efficaci di altre occasioni, non è stato neanche letale, no? E La Padula è ancora sembrato spesso un corpo estraneo, oltre ad aver sbagliato, devo dire, almeno un paio di decisioni, di scelte nel finale, nel passaggio finale, uno è un contropiede sprecato, quindi ci ha messo anche lui del suo, voglio dire. Questo è un problema in più, è un problema in più, perché i due, Deulofeu e Suso, sono sicuramente stati fin qui la ricchezza del Milan. Bisogna stare attenti che non diventino anche il limite del Milan, perché ci vuole ogni tanto anche qualche idea alternativa. Che non diventi poi un gioco monotematico. Abbiamo il traffico, io ringrazio Arianna Ravelli, con Dario Ricci invece ci sentiamo dopo il traffico, anche una volta perfezionata la qualità del collegamento. Vi do i nostri numeri, 349-238-6666 se volete mandare i vostri messaggi SMS o WhatsApp, cioè chi scrive le milanesi con la mente sono già in vacanza a Formentera e chi ancora chiede se è davvero possibile che Milan e Inter non vogliano i preliminari di Europa League, io credo che la risposta su questo sia assolutamente no. 800-24-0024 per chiamare, intervenire in diretta, aspettiamo anche le parole di Montella, torneremo a San Siro al nostro Dario Ricci. Insomma, Milano che non funziona, Milano che sta buttando via la stagione, poi per trascinamento una delle due arriverà a questo preliminare, sempre che non rientri la Fiorentina, però questo passaggio non mi sembra, è veramente sconcertante. No, chiedo scusa, buonasera, non mi sento molto bene, ecco adesso mi sento bene, forse volevate che io non parli, vi invito a non fare ancora processi assolutamente prematuri, la partita è ancora in corso, tutto può ancora succedere, anzi vi pregherei se potete rimettermi premium così continuo a vedere la partita come stavo facendo finora. No, la partita è finita. Tutto è ancora aperto, non si fanno ancora i processi. La partita non è ancora finita, è ancora coesa, è molto positiva. Allora, facciamo così, facciamo il traffico, poi vediamo se Milan-Empoli è finito. Traffico. Convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Sì, oggi ha chiuso la pratica a Palermo dopo 26 minuti. Sì, l'avevo chiesto in settimana, l'avevo chiesto ai miei giocatori, abbiamo avuto un grande approccio, insomma, dopo 29 minuti eravamo sul 5-0, la partita era chiusa, però insomma avevo avuto buonissimi segnali anche domenica a Genova, perché a parer mio avevamo fatto una grande partita e probabilmente avremmo meritato la vittoria, però quello che più contava oggi era il Palermo, era approcciare bene una gara che a detta di tutti doveva essere semplice, ma grazie ai ragazzi questa si è verificata così. Classifica alla mano, questo è un mattone importante alla corsa all'Europa League, le frenate delle due milanesi ovviamente danno maggior respiro alla Lazio. Poi volevo chiederti qual è la posizione di Inzaghi sulla... Questo è Simone Inzaghi, microfoni di Premium, sentiamolo sulla classifica. Soprattutto dopo l'arbitraggio di Maresca di Genova. Ma no, io penso insomma che ci siano ancora 5 partite, 15 punti disponibili, quindi insomma dobbiamo fare ancora tanto, sappiamo che avremo delle partite davanti a noi non semplici, dove dovremo cercarle di prepararle e farle nel migliore dei modi. Per quanto riguarda gli arbitri, domenica insomma ci sono stati degli episodi controversi, però come ho detto può capitare, la categoria arbitrale secondo me italiana è molto attrezzata, nello stesso tempo ho detto che secondo me la VAR aiuterebbe tantissimo, purché si possa giudicare al massimo in 20 secondi, perché sennò non sarebbe più calcio, insomma sarebbe basket, altri sport. Oh, a proposito del tempo e dei recuperi, oggi la questione arbitrale è stata sollevata anche da Sarri, poi lo sentiremo. Sarri che se l'è presa con D'Amato per un calcio di rigore non dato al Napoli nel primo tempo su Mertens. 800 24 00 24, torniamo allora a San Siro da Dario Ricci. Dario. Eccoci qua, caro Giovanni, siamo in attesa del nostro secondo ospite, Franco Ordine, che al momento è al telefono con le redazioni. Inevitabilmente il maxi recupero ha influenzato anche il lavoro dei colleghi giornalisti. Di fatto è interessante girargli questa considerazione sul fatto se le milanesi siano già con la mente in vacanza o no. Allora io volevo aggiungere due cose. Si diceva il Milan non ha un centravanti, comunque non gioca per un centravanti, e siamo d'accordo da questo punto di vista. Io credo che la Padula per il non gioco del Milan sia più utile rispetto a Bacca, perché riesce a trovare comunque gol sporchi. In secondo luogo, la classifica, si parla di sesto posto, milanesi che vogliono evitare il sesto posto, eccetera, eccetera. Il Milan era in corsa di fatto, ma anche l'Inter era in corsa di fatto con l'Atalanta e con la Lazio, perché si erano rimesse in scia. È chiaro che questi risultati pazzeschi condizionano fortemente la corsa a quei gradini che porterebbero direttamente in Europa League senza passare attraverso un preliminare oggettivamente scomodo. Dario. Eccoci qua, ci ha raggiunto Franco Ordine, inviato del giornale che ringrazio, ormai amico di Radio 24. Franco, prima domanda, ma Milano, la Milano del calcio ormai è in vacanza? Perché due prestazioni sconcertanti. No, dunque, in vacanza mi sembra dedita al Karakiri, quindi da questo punto di vista... più che cinesi mi sembrano giapponesi da questo punto di vista. Milan è riuscito, secondo me, in un'impresa storica e biblica, è riuscito a risuscitare l'Inter che era stata seppellita ieri sera a Firenze, è riuscita a rimettere in discussione l'ultimo posto in Europa League ed è riuscito anche a far a consegnare all'Empoli questo doppio successo tra Firenze e San Siro che credo ricorderanno per molti anni. Io per fortuna colgo l'occasione, se Carlo me lo consente, di esprimere a titolo mio personale e anche di tutti i miei corregionali la mia grande gioia e soddisfazione perché dopo 19 anni il Foggia torna in Serie B. Grande ritorno, grande Foggia. Abbiamo salutato Pippo Inzaghi e il ritorno almeno del Venezia. C'è un rosso nero, c'è un rosso nero che va forte, Sì. Ciccio, sì, sì, sì. C'è un rosso nero che funziona, non questa carretta scassata. Aspettate che vi fermo perché vi faccio sentire Montella che sta iniziando a parlare a premium, così poi lo commentiamo. Montella, così come i primi, ad intensità sicuramente diversa, ma abbiamo creato 15 palle gol. Sinceramente una partita di Serie A è difficile creare più palle gol, sicuramente ci manca più risolutezza in fase conclusiva nell'ultimo passaggio, però la squadra ha fatto quello che doveva fare. Poi ci sono anche partite di questo tipo, purtroppo, che se c'hai esperienza, se c'hai mestiere, se c'hai cattiveria dentro l'area, magari le vinci, altrimenti ci sta anche che due occasioni degli avversari tu possa perdere la partita. Quindi sono amareggiato per questo, sono deluso per il risultato, ma la squadra fino all'ultimo secondo ha provato veramente a rimettere in piedi una partita, sono dettagli se non c'è riuscito, ecco. Quindi non questo è Montella, ma non sarebbe mai i dettagli. No, io devo dire trovo ma sorprendente questa dichiarazione. Non lo so, sarei incazzato come una pantera, Franco, dopo aver visto la mia squadra giocare in questo modo. Si fa considerare un dettaglio essere riusciti o no a battere l'Empoli? La faccia dice tutt'altro rispetto alle parole, che sono parole, diciamo, tra virgolette, quasi di circostanza, come in occasione di un lutto di un vicino di casa. Secondo me oggi il Milan è stato, io vorrei riassumerlo in tre aggettivi che utilizzerò domani mattina sul giornale: pigro, moscio e lazzarone. Sì, ma qualche responsabilità ce l'ha anche Montella, perché non se aveva chiesto furore, vale per tutti gli allenatori che presentano squadre così. Non aveva chiesto furore Montella al Milan, e allora pigro e lazzarone. Il furore si riferiva alla trasmissione di ieri sera su Rai 2. Ecco, aveva fatto uno spottone, va bene. No, invece voglio chiedere anche a voi, così allarghiamo un attimo il discorso, poi vi salutiamo e vi lasciamo al vostro lavoro. Io credo che la conferma di questo weekend sia per Inter che per Milan è amare, cioè che non basteranno i soldi cinesi, tanti, pochi, veri, presunti, per colmare il gap, e credo sia un risveglio duro, ma sia una presa di coscienza che la Milano del calcio deve avere. Vale soprattutto per l'Inter, che sognava fino a un mese fa col mercato estivo di poter competere con la Juve. Qui ci sono degli handicap e dei gap che sono molto più lunghi da colmare. Sì, questo è un esame, un giudizio che io condivido, è la dimostrazione che non soltanto non bastano i soldi, che è già cosa nota dai tempi degli anni 50, ma la cosa più importante è questa, che questa squadra senza motivazioni. Basta vedere la differenza di rendimento di Zapata tra il derby e quello di oggi. Questa è la dimostrazione proprio di una squadra che non è capace di. E quindi, se non sei capace, puoi andare a comprare anche Cristiano Ronaldo e Messi, ma non ottieni grandi risultati. Grazie Franco. Sì. Ciao, saluti. Ciao. Dario, ciao. Cosa pensi? Sì, diciamo assolutamente condivisibile, il gap tecnico sarà difficile da colmare in un amen. Tra l'altro direi che oggi San Siro ha bruciato anche De Sciglio, perché va sottolineato che quello che fino a qualche tempo fa era comunque un punto fermo, un talento eccetera eccetera, oggi alla sostituzione, al momento della sostituzione, è stato subissato di fischi e si sta ricreando una dinamica che San Siro ben conosce. È stato difficile, praticamente ogni volta che De Sciglio tocca palla parte la bordata di fischi. Sì, credo più per le cose scritte questa settimana sui giornali sul fatto che ha comunicato di non voler rinnovare il contratto oltre il 2018, il che significa quasi certamente il passaggio alla Juve, che lo corteggia da oltre un anno, però sicuramente oggi si è consumata una rottura su quel cambio. Grazie Dario. Ciao Dario. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Dario Ricci, che recuperiamo in redazione, che seguirà poi tutto ciò che accade nella serata dello sport. Giovanni, al Milan manca l'attacco, ma hai visto il secondo gol dell'Empoli? Manca anche un po' la difesa. Oggi mancava anche Romagnoli, dato forfè all'ultimo momento, va bene, sul posto Zapata. Un triangolo elementare con Maccarone che fa la sponda al compagno che si trova libero con Paletta dietro di un chilometro davanti a Donnarumma. Vito da Milano, Vito. Buongiorno, sono un ferrarese trapiantato a Milano da 60 anni. Sì. Sono stufo di sentir parlare, scusatemi, di Milan, Inter, Juventus, così. Ma parliamo della SPAL, della mia SPAL, la mia adorata SPAL. Parliamo che sta facendo un campionato sì. Stupendo. Va bene, però, tutto qua. No, noi possiamo parlare anche di Milan, Inter e tutte le altre, però siamo contenti se tu ci racconti qualcosa della SPAL che ieri ha fatto un passo molto lungo verso il ritorno in Serie A, no Vito? Sì. Ho già giurato sull'altare degli dèi che porterò mio nipotino che ha 2 anni e mezzo circa in occasione della prima partita col Milan o con l'Inter della SPAL a Milano naturalmente, e andrò con lui a vederla. Mi sono segnato, mi sono tatuato. La Serie B è ancora lunga, adesso non vogliamo portarti Iella, però speriamo che vada tutto, raccolto questa speriamo foto. Che vada tutto bene. Grazie Vito. 8024 0024. Scusate, ma non va assolutamente SPAL, bene, perché la SPAL è una squadra rispettabilissima. Sì. Ho piacere che la SPAL ritorni nella massima serie, però scusatemi, trovo assolutamente poco serio che voi giornalisti diate per scontata la sconfitta del Milan. Qui stiamo assistendo a un finale rocambolesco, a un finale, secondo me ci dovrebbero stare molti minuti di recupero, sì, perché qui si continua a perdere tempo. Quindi non diamo per scontato, la partita è ancora coesa, molto positiva da parte nostra, e quindi ci siamo. Quindi non fate i gufi. Vabbè, allora adesso... Ecco, tiro. No. Niente. Sempre molto bella. Oggi sono stati 8 i minuti di recupero. Ecco, si gioca ancora. Capuano, non faccia la persona poco seria. C'è chi ci chiede se abbiamo commentato la stessa partita che ha visto Montella. Ah, pensavo fosse gol. C'è chi ci chiede se abbiamo visto la stessa partita che ha visto Montella. Insomma, le parole di Montella fanno discutere. Adesso arriva anche più l'incipardo. 8-0-0-24. Non è vero niente, è finita. 8-0-0-24-0-0-24. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Avrebbe preferito magari il Real Madrid? No. Il Monaco è una squadra che è arrivata in semifinale. Per arrivare in semifinale bisogna avere dei valori. Il Monaco ha dei valori tecnici e tattici. Non ha la storia della Juventus, però questo non vuol dire che la Juventus è facilitata nell'andare in finale. Innanzitutto domani è una partita che secondo me vale il campionato, perché uscire domani con una vittoria contro il Genova farebbe sì che il vantaggio rimarrebbe invariato e abbiamo la possibilità di sbagliare 2 partite. Questo Allegri ieri alla vigilia della partita di questa sera ore 20:45 con il Genoa, che Allegri chiede di vincere per sigillare sostanzialmente il discorso scudetto. C'è chi dice anche che trova strano che l'Empoli, mai vincente nella vita, poi possa passare in una settimana a Firenze e a San Siro contro il Milan. Però questi sono i finali di stagione, dove chi ha le motivazioni vince. Sì, lo trovo strano anch'io, perché l'Empoli dava l'idea di una squadra con l'elettroencefalogramma piatto, a differenza del Crotone, che peraltro oggi ha giocato un'altra splendida partita vincendo a Genova con la Sampdoria. Questo mi sorprende molto meno. Che l'Empoli vinca San Siro, nel fatto che l'Empoli vinca San Siro c'è moltissimo di demerito del Milan, che non può perdere un'occasione così. È una squadra totalmente senza personalità il Milan, e a me sorprende onestamente sentire anche quelle parole di Montella di assoluzione, perché certe volte bisogna anche pubblicamente andare giù duri con i giocatori, sì, quando giocano partite indecorose come quelle di oggi. A proposito di assoluzioni, dopo le 18 facciamo il processo all'Inter, e dopo la figuraccia rimediata ieri con un secondo tempo sconcertante da licenziamento in tronco, ma non per Pioli, per tutti quelli che erano lì presenti, l'Inter ha dato 48 ore libere alla squadra, che fa ponte e torna ad allenarsi nella giornata di martedì. A proposito, una grande idea. A proposito di pugni duri, saluto Guido Vacciago da Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao, ma perché pugno duro? Cioè, no. Dico al contrario, no? Cioè, tu prendi 4 gol e un rigore in un tempo e vai 48 ore a fare. Tu giochi, la Juventus che gioca una partita così va in vacanza 2 giorni? secondo te? Dipende, insomma, a volte Allegri con il gruppo che ha dato del riposo dopo certe sconfitte, proprio perché poi questo gruppo rischia di andare anche all'eccesso di autopunizione, perché è un gruppo che quando perde vive malissimo le sconfitte e ha un altro tipo di carattere rispetto al gruppo magari dell'Inter, quindi paradossalmente in un gruppo come quello della Juve forse Allegri dare del riposo dopo una sconfitta poteva essere anche un metodo per rallentare la tensione che altrimenti è altissima nei giocatori. Le rare sconfitte di questo gruppo le ho sempre viste poi vivere male dal gruppo, con gente che non vedeva l'ora di ritornare in campo, ad allenarsi, a migliorare, a correggere gli errori, ed è così che poi nascono i cicli come questi. Questione di mentalità, quella roba che non si compra nemmeno nel prossimo mercato estivo. Qui torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, vale soprattutto per l'Inter, in parte anche per il Milan, cioè l'idea che con l'estate della potenza del Suning l'Inter l'anno prossimo potesse essere competitiva già per lo scudetto, io credo fosse una favola che veniva raccontata ai tifosi, che probabilmente nell'ultimo mese si è dissolta, e io credo che questo alla fine sia un favore a tutto l'ambiente, intendo in questo caso l'ambiente dell'Inter, cioè un sano bagno di umiltà, sapendo che ci sono le potenzialità, che ci sono le possibilità di fare bene, di crescere, di provare ad aprire un ciclo più competitivo di questo, ma che bisogna farli tutti i gradini, e il primo gradino è quello della mentalità, che ad esempio non manca la Juve. Volevo approfittare di Guido Vaciago per capire da lui se quel richiamo di Allegri alla partita del Genoa vissuta come una finale è qualcosa fatto per evitare che nella testa resti il Barcellona, o se davvero, calcolatrice alla mano, questa può essere la domenica decisiva. Beh, lui è un fenomeno dal punto di vista dei conti, perché è sempre lì che calcola le quote scudetto, poi spesso ci azzecca. Credo che da una parte Allegri tema l'effetto Champions, più che nel Barcellona nella testa lui teme che ci sia il Monaco, perché la squadra è certamente proiettata verso la semifinale, per quello che rimane l'obiettivo più grande della stagione, anche il più difficile e il meno, come dire, il meno vicino, però in qualche modo è quello che fa più gola. Però io non credo che lui abbia difficoltà a riportare la squadra nella giusta concentrazione, anche perché si può permettere perlomeno in una parte del campo di fare tanto turnover e di dare l'occasione a giocatori che si sono espressi di meno di dare il loro contributo, e dare il loro contributo per qualcosa di grande. Parli di difesa e centrocampo. La Juventus a differenza del Milan e dell'Inter è una squadra che si motiva da sola, che si gestisce emotivamente da sola, quindi non credo che sia un problema di Monaco, di deconcentrazione, di effetto Barcellona. È una squadra talmente esperta e ha talmente tanta personalità, cosa che al Milan e all'Inter mancano in maniera evidentissima, che va soltanto guidata, va soltanto gestita dal punto di vista fisico. Ma sì, io credo che quando tu hai la fortuna di avere nel gruppo Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Khedira, perché Khedira, non dimentichiamoci, è il capitano o vice capitano della Germania, ecco, voglio dire, e anche giocatori come Mandzukic, come Dybala, lo stesso Higuain, che comunque è un giocatore di personalità, è un giocatore che è stato tanti anni nel Real Madrid, io credo che sia tutto sommato abbastanza semplice il punto di vista motivazionale. Emotivo, ma certo, ecco. Certo. Oggi vedremo invece una formazione strana, perché credo che si ritorni a difendere a tre la Juve, e schieri un 3-4-1-2 se ho ben capito, perché i giocatori li conosco, non so poi come andranno in campo, ma credo che a parte Neto in porta, in difesa ci saranno Barzagli, Bonucci e Benatia. Quindi difesa 3. Difesa 3, perché poi vedo Lichtsteiner e Asamoah in campo, quindi mi viene in mente che Lichtsteiner e Asamoah giocheranno più sulla linea dei centrocampisti, insieme a Khedira e a Marchisio. E davanti ci saranno Dybala, Mandzukic e Higuain, che potrebbero schierarsi come un tridente. Sì, ma potrebbero non può essere il 3-5-2. No, il 3-5-2 ti direi di no, sarà un 3-4-3, ti direi, di zaccheroniana memoria. Ma credo che più o meno sia quello, anche perché sì, Lichtsteiner potrebbe come dire, scendere sulla linea di difensori, ma Benatia non è un terzino sinistro, quindi credo che poi, come al solito, la Juve quando gioca con la difesa 3 o scende Lichtsteiner o scende Asamoah, e poi per difendersi si possono difendere anche a 4, ma poi in fase offensiva io credo che imposteranno a 3 con Bonucci che come al solito farà il regista arretrato e i 4 centrocampisti e 3 attaccanti, con Dybala magari che gioca fra le linee, ormai quella è la sua posizione a prescindere, quindi continuerà a esserlo anche oggi. Sì, non credo sia nemmeno una prova per il Monaco che gioca un 4-4-2 efficace in ripartenza ma abbastanza basilare, quindi non c'è da inventarsi niente di particolare. L'avversario però conoscendo quelli... Allegri è uno che sperimenta, fa certo, prova fa benissimo, per tempo, però l'avversario è davvero uno di quelli morbidi. È uno di quelli depressi, insomma. Sì, per quanto devo dirti la verità, se sono attenti, il Genoa deve cogliere la vittoria del Crotone come un campanello d'allarme. Sì, stiamo poi però per parlando carità. Comunque di un vantaggio di 6 punti in questo momento tra Genoa e Crotone con l'Empoli in mezzo. Per carità, può succedere di tutto in questo campionato, può succedere di tutto. Però effettivamente il Genoa se riuscisse a fare 3-4 punti abbastanza rapidamente si metterebbe al riparo da qualunque tentazione. Tra l'altro il Crotone che domenica prossima ospita il Milan, e anzi io lancio la domanda a tutti 800 24 00 24 tra Inter, Milan e Fiorentina, perché a questo punto metto dentro la Fiorentina chi va a fare il preliminare di Europa League e chi invece resta a casa. Dando un'occhiata al calendario, io non so davvero chi stia meglio a questo punto. Saluto Guido Vaciago, lo ringrazio. Grazie Guido. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Guido Vaciago, Tutto Sport. Efrem dalla provincia di Lecco. Efrem. Buonasera. Eccoci. Dalla provincia di Lecce. Lecce, eccomi qua. Innanzitutto complimenti a tutti. Io vorrei fare una considerazione. Ritornando al discorso delle milanesi, Inter e Milan, secondo me è un ambiente che soffre un po', perché non si può parlare del cambio di allenatore e poi andare ad affrontare una partita, perderla e dare la colpa comunque o all'allenatore o ai giocatori. Secondo me è un ambiente che a lungo andare darà problemi ancora più pesanti. Sì, perché, ma storicamente gli ha dati, se parli dell'ambiente Inter, storicamente ha sempre bruciato stagioni, allenatori. Sono ambienti che devono essere costruiti. È sempre tutto in discussione. Secondo me rischia la panchina più Allegri, ma perché... Io sono juventino. Allegri? Sì, perché secondo me quest'anno la Juve, se non vince, si romperà qualcosa. Sì, se non vince cosa, però? Perdonami, Efrem. Se non vince la famosa Coppa, non voglio dirlo. Perché? No, per carità, va bene tutto. Io sono dell'idea contraria, cioè secondo me Allegri potrebbe andare via nel caso di triplete. Dovesse fare triplete. A quel punto io fossi in lui, piuttosto mi piglierei un anno sabbatico, come ha fatto Guardiola, perché... a quel punto sarebbe molto più difficile ripartire, rimotivare la squadra, o fai una rifondazione, cosa che la Juventus non sembra alle porte, oppure quando sei arrivato così in alto è facile dire che peggio non puoi fare. Per quanto riguarda Inter e Milan, inutile parlarne adesso, sono due realtà che devono essere ristrutturate, ristrutturate. Sì, anche se nell'ultima estate dell'Inter balla un mercato da un centinaio di milioni abbondanti. Non dubbio, Giovanni. Cioè, però, buttarli via così, io credo va ristrutturata dal punto di vista societario e poi tutto il resto. Abbiamo il traffico 800 24 00 24, poi parliamo del Napoli. Tutti convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Nel calcio adesso sono arrivati i cinesi, benvenga il rafforzamento di un Milan, benvenga un rafforzamento di un Inter, basta che non ci vengano a scassare il pasticciotto a noi, a casa nostra, perché sennò poi i baffa si sprecano. Quindi diciamo che tutti quanti tra gentiluomini provvederemo, se le istituzioni ce lo permetteranno, perché anche lì c'è un bel ridere, di far crescere finalmente il calcio italiano. Io penso che il Napoli attuale non può programmare uno scudetto, ci sono squadre troppo più forti sotto altri punti di vista, ma noi dobbiamo cercare l'evento che vada al di là della razionalità e al di là della logica. Dobbiamo andare a vedere se nel calcio c'è ancora spazio per questi sogni. non posso dire che il secondo posto in Italia è come se fosse uno scudetto, no? Però diciamo che il super scudetto è prima o poi ce lo prenderemo, no? Troveremo qualche spina nel fianco da qualche altra parte. Dai, poi tra l'altro piatto ricco mi ci ficco, è sempre stato un mio motto. Ma intanto oggi il Napoli poteva prendersi il super secondo posto, almeno temporaneamente, fino a domani invece ha fatto 2-2 contro il Sassuolo. Bella partita, Sassuolo è una squadra che non vale assolutamente la sua classifica, che è intorno al 15° posto, ogni tanto ti scoppia per le mani, è successo oggi al Napoli. Gioca pallone. E può capitare, però io ho trovato paradossale lo scambio ieri tra De Laurentiis e Sarri, molto significativo, sì. Uno chiede lo scudetto, l'altro gli spiega che per ragioni societarie questa cosa qui non è programmabile. Saluto Gigi De Cagno, che conosce molto bene l'ambiente napoletano. Ciao Gigi. Ciao, Gigi. Buonasera, bentrovati. Oh, vi faccio così, mettiamo tutti i temi napoletani, vi faccio sentire anche oggi Sarri dopo il 2-2 arrabbiato con D'Amato. Le proteste da parte vostra sono soprattutto per un episodio nel primo tempo, il contatto in area del Sassuolo quando è andato giù Mertens. Dalla panchina era sembrato talmente netto che sembrava incredibile l'arbitro non l'abbia fischiato. Allora, questo oggi Sarri deve prendersela con chi, De Cagno? Con se stesso, con l'arbitro, con il fatto che quando incroci Sassuolo non sai mai che Sassuolo trovi, quello di oggi era in spolvero. Il fatto anche che prende, sì, che prende parecchi gol. Io penso che non debba prendersela con nessuno, perché sono quelle partite in cui come allenatore vedi che la tua squadra fa tutto quello che deve fare e magari ci sta anche qualche errore e poi qualche episodio non ti favorisce. Parlo soprattutto ma c'era questo rigore stai parlando di episodi rigore, tecnici. Parlo degli episodi tecnici, perché questi non dipendono da te come squadra, no? Parlo delle due traverse che magari se fossero andate dentro, di questo presunto rigore non si sarebbe nemmeno parlato, insomma. Sì, ma ha ragione De Laurentiis a far capire che comunque vuole pensare, progettare, sperare in uno scudetto. Ha ragione Sarri che gli dice che per questioni di fatturato societarie, insomma, per vincere e progettare uno scudetto bisogna pensare più in grande. Mi sembra che sia necessario guardare la distanza societaria che esiste tra la Juventus e il Napoli. Sì, però si vince anche col fatturato minore, eh? Il Monaco sta in semifinale e non ha il fatturato del Manchester City, del Borussia Dortmund, ma infatti, magari nemmeno della Juve, infatti deve essere, e nemmeno del Paris Saint Germain, esatto. Nemmeno del Paris Saint Germain, però deve essere Paris Saint Germain a sbagliare la stagione, no, a quel punto, perché altrimenti è secondo, sì, è secondo, però se non vince il titolo non è come l'anno scorso in Premier, che hanno sbagliato 10 squadre e l'ha vinto il Leicester. Ma in Inghilterra i soldi ce li hanno tutti, Gigi. In Francia il Paris Saint-Germain è talmente superiore dal punto di vista della potenza economica che se non vinci lo scudetto vuol dire che non hai lavorato bene, perché ormai le distanze tra le squadre che hanno così tanta disponibilità economica e un'organizzazione così grande e le altre può essere colmata solo nei sogni di De Laurentiis. Io vi dico la mia. Per me è vero che è più difficile per una squadra che non ha un fatturato elevato vincere qualcosa, vincere uno scudetto. Però per me conta la competenza, la capacità di saper scegliere, la capacità di ottimizzare le risorse che hai. Il Napoli quest'anno non ha speso poco, il Napoli ha incassato e ha speso abbastanza. Anche oggi, di quei giocatori per i quali sono stati spesi e sono stati fatti investimenti, in campo non c'era nessuno. Allora penso a Maximovic, penso a Tonelli, per i Pavoletti. Quali, Pavoletti, no, penso a tre o quattro calciatori che forse per le cui risorse, se fossero state ottimizzate, presi dei giocatori di una certa statura, probabilmente il divario sarebbe ancora più corto, ancora minore. Poi è chiaro che sì, Questo è un discorso che puoi fare nei confronti della Roma, perché il Napoli è certamente più profondo rispetto alla Roma, anche se magari ha picchi di talento inferiori. Però rispetto alla Juventus è vero, Sarri non è esattamente un fautore del turnover, è uno che se ha un difetto è quello di non riuscire. Scusate, no, non parlo in questo momento non sto toccando l'allenatore sul turnover, eccetera. Io sto parlando della ottimizzazione, queste cose le fa chi opera in società, no? Chi sceglie i calciatori. Allora, se poi ci vogliamo mettere anche l'allenatore, mettiamoci anche l'allenatore, se la società fa collaborare anche l'allenatore nella scelta dei calciatori, ma siccome probabilmente a Napoli non accade, allora io voglio dire che se probabilmente una ottimizzazione delle risorse avvenisse in maniera più accurata, si potrebbe vedere certamente un Napoli molto più vicino alla Juve. Non dimentichiamoci che anche l'anno scorso il Napoli è stato per 6 mesi primo in classifica, aveva parecchi punti di vantaggio sulla Juve. È vero che poi la Juve ha avuto un effetto della stagione folle della Juve, cioè per prima a livello di commedia da retrocessione e poi praticamente senza perdere punti. Sì, però poi il Napoli, voglio dire, a gennaio il Napoli non ha combinato nulla, per esempio, no? Se il Napoli avesse probabilmente operato in un certo modo sul mercato, anche nello scontro diretto dove il Napoli giocò anche meglio e abbastanza bene lo scontro diretto con la Juve, ci fosse stata per Sarri la possibilità di avere delle opportunità in più, e probabilmente avremmo visto un finale diverso, o comunque la distanza non sarebbe stata così come anche quest'anno si è dimostrata. E in questo modo, voglio dire, io penso che si cresca e si possano anche raggiungere dei risultati che a volte possono sembrare insperati. Abbiamo un paio di minuti, io voglio girare a Gigi Decagno un WhatsApp che è appena arrivato, che trovo molto interessante, e dice: non si può arrivare secondi o terzi ogni anno e dire che non si può parlare di scudetto. La mentalità vincente si crea anche pensando con competenza, pensando in grande, progettando. Sarri è un bravo allenatore, ma se parla così non sarà mai un top. Io in parte questo messaggio lo condivido, cioè ha più ragione De Laurentiis a dire io comunque lo scudetto ci penso e lo voglio, che Sarri a mettere sempre davanti i ragionamenti sul fatturato e altro. E poi sul campo è bravissimo Sarri, per carità, però vale il discorso fatto prima, e come dice De Canio il treno per Juve è passato l'anno scorso quando la Juventus si è complicata, ma il treno può anche ripassare l'anno prossimo, questo lo vedremo. Insomma, non è che altrimenti si piglia il conto in banca e più o meno la classifica è scritta, o no? Dico che fino a questa domenica, adesso non sappiamo che cosa farà la Juve questa sera che c'ha la partita, però fino ad oggi il girone di ritorno di Napoli e Juve dice che Napoli e Juve hanno fatto gli stessi punti, se non sbaglio, io non sono, l'ho sentito questo. Sì, dovrebbe essere così, e comunque Sarri dice in un girone, da girone a girone, da Sassuolo a Sassuolo, il Napoli ha fatto 46 punti. Che proiettati su un doppio vuol dire andare oltre i 90, quindi lui rivendica comunque anche degli ottimi risultati dal punto di vista numerico. Ma per l'amor di Dio, come si fa a disconoscere? Attenzione, perché Sarri ha fatto qualcosa davvero di bello, di importante sotto questo profilo. Magari io sono meno d'accordo sul fatto dialettico di parlare tanto di fatturati, perché poi attraverso il lavoro questo fatturato si può anche, non dico azzerare, ma comunque o annullare completamente, ma comunque limitare, come lui stesso ha dimostrato. Poi ha fatto anche sul campo, spingendo al Napoli oltre. Allora, io ringrazio Gigi De Cagno. Ciao Gigi, grazie. Grazie per l'intervento. Grazie. C'è anche chi ricorda l'Atletico Madrid, che ha dei fatturati lontanissimi da Real Madrid e Barcellona. Abbiamo meno di un minuto, facciamo Andrea da Parma, 800 24 00 24. Andrea? Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire per l'Inter, non sì, so se è dai. Il momento giusto. L'intervento in questi anni, cioè, secondo me il problema dell'Inter, cioè molti dicono la mentalità, però il manico, l'allenatore è fondamentale, cioè l'allenatore La mentalità la quella dà l'allenatore. L'allenatore che certamente si è giocato la conferma l'anno prossimo, ma secondo me non è in testa alla lista dei colpevoli. Però ne parliamo dopo il GR, parliamo proprio, facciamo il processone all'Inter. Anzi, voglio sapere chi è più colpevole del fallimento di questa stagione. 800-24-00-24. Purtroppo quelli del secondo tempo non può essere la mia squadra, non può essere la squadra che ha fatto bene fino a domenica scorsa, perché anche nel derby, comunque al di là di come siamo stati raggiunti all'ultimo secondo, la squadra aveva giocato, oggi l'abbiamo fatto solamente per 45 minuti, dove la partita è stata equilibrata contro un avversario che ha delle buone qualità e poi abbiamo avuto un blackout inspiegabile. Tutti convocati. Convocati. Calcio d'angolo Icardi! 5-4 con tripletta di Icardi e 3 di recupero. Le partite pazze sono pazze. Chiedo subito intanto conferma di questo faccia a faccia che c'è stato nello spogliatoio. Ma è chiaro che dovevamo per forza fare delle valutazioni. Purtroppo quelli del secondo tempo non può essere la mia squadra, non può essere la squadra che ha fatto bene fino a domenica scorsa. La squadra aveva giocato, oggi l'abbiamo fatto solamente per 45 minuti e poi abbiamo avuto un blackout inspiegabile. Minuti prendere 4 gol dopo un errore su un calcio d'angolo, una marcatura, e non possiamo venire giù così e buttare tutto quello che avevamo fatto anche nel primo tempo, perché abbiamo chiuso in vantaggio. Non è una grande squadra come penso che sia l'Inter. Io penso dare il massimo, l'ho fatto dal primo giorno che sono arrivato qua e lo farò fino all'ultimo giorno. E sono responsabile sicuramente della prestazione di stasera, sono responsabile degli ultimi risultati e così come lo sono i miei giocatori. In questo momento non sappiamo reagire alle difficoltà e alle prime difficoltà diventiamo piccoli piccoli. Queste le voci dal tracollo di ieri dell'Inter, poi oggi ci ha messo su anche il Milan, quindi in realtà la corsa per il sesto posto preliminare di Europa League è ancora aperta, è aperta anche alla Fiorentina che è un punto dietro all'Inter e a questo punto 3 punti dietro al Milan e tutti giocano per il sesto posto. Voglio sapere secondo voi chi va e chi invece resta fuori. Sì. 800 24 00 24, dicevo voci dal tracollo di ieri, io voglio sapere dai tifosi dell'Inter, facciamo il processo, voglio sapere secondo loro qual è la scala delle responsabilità. Ha scritto un amico via WhatsApp: prima di tutto colpevoli i giocatori che vanno in campo e non hanno dato tutto da inizio stagione, e poi la dirigenza che sembra assente. Il mio colpevole numero uno è la dirigenza, soprattutto chi ha permesso a Toir quest'estate di combinare il casino che ha combinato. Poi ci sono i giocatori che non possono staccare la spina tutte le volte che non stanno lottando per qualcosa di che può potenzialmente essere importante. Solo dopo e per distacco vengono le colpe di Pioli, che pure ci sono, Carlo, ci sono indubitabili. Però continuiamo a parlare di corsa al sesto posto. Sappiamo bene come sesto posto sia pericoloso, però Inter e Milan si erano messe in scia dell'Atalanta e della Lazio, quindi poteva essere serenamente una corsa al quarto posto. Però oggi la fotografia era qualcosa di diverso. No, ma la fotografia è questa. Se andiamo a caccia di responsabilità, secondo me all'Inter e al Milan in questo momento di grande è rimasta solo la maglietta, sono rimasti i colori ed è rimasta la storia. Per il resto è tutto un gran casino. Vanno ristrutturate, ripeto, le due società. Si tratta di capire chi comanda, chi svolge i ruoli in maniera precisa, chi deve fare questo e chi deve fare quello. Sì, però questo è un discorso, ci vorrà uno, due estati, se ci fai caso ci vorrà tutto. Ma di chi è la colpa della prestazione? Ieri è stato un secondo tempo inguardabile dell'Inter. Tu non puoi prendere 4 gol e un calcio di rigore. No. quando sei andato all'intervallo sul 2-1, come non puoi fare l'approccio che hai fatto a Crotone, che ha fatto l'Inter, come non puoi fare come oggi il Milan. In campo vanno i giocatori, ma è evidente che se tu senti che dietro le spalle non hai un muro, non hai una struttura, si comincia a dire, è un mese che parliamo di Conte, che parliamo sì, ma ci di sono più. Squadre messe molto peggio che giocano molto più dignitosamente. Tipo? Oggi il Crotone. No, ma il Crotone sta Crotone giocando dignitosamente, situazione... probabilmente retrocederà perché l'Empoli si è messo a vincere delle partite che sulla carta non poteva vincere. Il Crotone è una situazione però andrà via a diversa. Testa alta. Cioè, fa parte di un'altra categoria. Il Crotone ha fatto un campionato da levarsi il cappello, perché non dimentichiamo che ha perso un sacco di gare 1-0, non meriterebbe la retrocessione. L'Empoli è una sorta di mistero buffo che ha fatto schifo in tutto il girone di ritorno e poi si è messo a vincere due partite in trasferta nella maniera che conosciamo, compresa quella di oggi. Quando parli di Milan e Inter, contano anche altre cose, perché qui siamo nell'ambito dei grandi club, dove deve esserci una struttura dirigenziale, dove devono esserci dei ruoli definiti, dove devono esserci delle responsabilità definite e dove devono essere prese delle decisioni che siano chiare. In questo momento chi all'Inter, ad esempio, se l'Inter dovesse decidere paradossalmente di confermare a Pioli, chi all'Inter si espone e dice Pioli è il nostro allenatore per l'anno prossimo e lui valuterà i giocatori? La mette Ausilio, che ha appena avuto il rinnovo questa settimana fino al 2020. Adesso poi facciamo Alessandro e Antonio, che hanno chiamato 800 24 00 24. C'è chi scrive su WhatsApp che fine hanno fatto i Saputelli, che dicevano Pioli è arrivato troppo tardi, se fosse arrivato prima, se fosse rimasto De Boer. Eccoci qua. De Boer, che è il sintomo della colpa di Suning e di Toir per aver perso questa stagione. Se fosse rimasto De Boer, oggi l'Inter avrebbe 41 punti. Siamo noi Saputelli. Perché Pioli ha fatto un lavoro più che dignitoso. Al di là dell'ultimo mese indifendibile, Pioli è quello che ha messo in ordine un casino pazzesco che c'era, che si è trovato per le mani, e lo ha fatto anche abbastanza in fretta. Alessandro. Buongiorno. Eccoci. Sono Alessandro. Senta, io purtroppo sono un tifoso dell'Inter. Sì. E onestamente in questo momento mi vergogno della squadra. Mi vergogno perché a tutti gli effetti ieri ho visto la partita dove commentava Bergomi e praticamente ha dato un giudizio che a mio parere è esatto, cioè ognuno gioca per sé, quando a un certo punto vanno sotto. La difesa non esiste assolutamente e a tutti gli effetti poi succede una roba del genere. C'è una considerazione che volevo fare e sentire il vostro parere. La differenza fra un arbitro e un altro. Ieri l'arbitro che ha arbitrato Fiorentina-Inter ha dato 4 minuti... Valeri. Sì, Valeri ha dato 4 minuti di recupero. In questi, tenuto conto che nel secondo tempo sono stati fatti 6 gol, festeggiamenti, abbracci, eccetera, giustamente, no? Specialmente da parte della Fiorentina, che era passata avanti. In quei 4 minuti ci sono stati 2 o 3 falli della Fiorentina che sono stati... C'è stata una ammonizione e c'è stato un gol, l'ultimo di Cardi. Esatto. Sì, e lui non ha fatto tirare quel calcio d'angolo e poi le moviole, Alessandro, hanno dimostrato che mancavano 5 secondi. Io la penso così, io penso che parlare di quel calcio d'angolo sia assolutamente ridicolo. Però penso che bisogna mettersi d'accordo, perché capisco che i giocatori dell'Inter lì per lì se la siano presa, visto che sabato scorso gli hanno giustamente spiegato, secondo me, che se tu perdi tempo nel tempo di recupero si va avanti ad oltranza e poi becchi un gol su calcio d'angolo al minuto 97. Oggi il Milan ha giocato fino al minuto 98, quasi tempo effettivo, è diventato il tempo di recupero. E allora su questo ci vuole un po' di uniformità e quindi hai perfettamente ragione, però il discorso sui 5 secondi del calcio d'angolo lo chiudiamo qui, perché poi ci sono gli altri 94 minuti in cui l'Inter è stata letteralmente inguardabile. No, possiamo chiuderlo qui, però è vero. Cioè, sì, è vero che mancavano 5 secondi alla fine del tempo. Il calcio d'angolo si fa tirare, sì, bene, perché abbiamo visto nel derby che cosa è successo. Oggi il Milan, insomma, nel tempo di recupero ha avuto più di un'occasione per pareggiare. Antonio da Foggia, Antonio. Pronto? Eccoci. Salve, io praticamente innanzitutto volevo dire che la mia squadra è tornata in B. In Serie B. Sì. In Serie B. L'abbiamo in celebrata B. con Franco Ordine. Ma è lì con voi? No, no, ci ha telefonato apposta per dirci che il Foggia è tornato in Serie B. No, scherziamo. Si è anticipato il signor Franco Ordine. Va bene, niente, era solo la scusa per chiamare per il Milan, perché volevo dire solo che noi ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie B. La la la la la la la la la. Forza, forza. Ciao Antonio, c'è il traffico, guida piano, mi sa che sta tornando allo stadio. Siete tutti convocati, siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Tutti convocati. La squadra del secondo tempo, pensi che ti abbia tradito, che ti stia tradendo? Ma ci stiamo tradendo da soli. È vero che la Champions è diventata quasi impossibile, ma è altrettanto vero che sapevamo che raggiungere la Champions sarebbe stato un risultato straordinario. Dobbiamo fare di tutto per dare il nostro massimo, fino alla fine, fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Non possiamo essere l'Inter del secondo tempo. La mia volontà e la mia concentrazione è solo sul lavoro, è solo sul presente, e so benissimo che le cose cambiano nel calcio da un momento all'altro e che sono risultati essere decisivi, quindi come un mese fa ero un ottimo allenatore, adesso probabilmente i giudizi e valutazioni saranno diversi. Altre voci sempre di Pioli dalla notte interista, leggo qualche messaggio che è arrivato, 349-238-6666. Pioli aveva fatto discretamente bene fino a quando non è andato in TV a piagnucolare sull'arbitraggio dopo Juve-Inter. Da allora non è più stato lui. E un altro, è inutile dare la colpa a giocatori e allenatori, la differenza la fa la società. Poi c'è chi chiede di richiamare De Boer. Ah, e ci sono anche i tifosi di Inter che chiedono di richiamare De Boer. C'è chi ci chiede come facciamo a difendere i giocatori del Milan per la partita di oggi. In realtà è stato Montella a difenderli. Bravo, è stato Montella. Io mi sono anche discretamente sorpreso. Non siamo stati noi. Perché ci sono delle volte in cui, al di là del politichese calcistico, devi anche utilizzare pubblicamente il bastone, sì, cioè, andare dritto per dritto e dire che è inconcepibile perdere una partita. Ha chiesto furore, oggi avevano gli occhi da galline, e quindi mi sembra che non stiano tanto ad ascoltarlo. Poi ancora Walter, nei preliminari di Europa League va la Fiorentina perché ora è motivata, mentre le milanesi hanno già chiuso per ferie. Anche se le indicazioni sono diverse, perché comunque oggi gli occhi di Montella erano occhi che dicevano qualcosa di diverso rispetto alle parole. Saluto Sebastian Frey, ciao Sebastian. Ciao Seba. Ciao, buonasera, ciao. Pagherà Pioli alla fine, l'ha detto anche Icardi, non si possono mandare via 20 giocatori, alla fine paga sempre l'allenatore. Io non so onestamente quanto sia giusta questa lettura, in una stagione in cui Pioli è il meno colpevole di tutti. Non so, sì, cosa la pensi tu. Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo, perché Pioli è arrivato, da quando è arrivata comunque ha fatto bene, ha trasmesso qualcosa di positivo, la squadra è cambiata rispetto all'allenatore precedente. Ovviamente, come ha detto Icardi, penso che alla fine una valutazione giusta, anche in questi casi il primo a pagare è sempre l'allenatore, anche se ha detto qualcosa di molto importante Zanetti. Ho letto dopo la partita, ci sono dei giocatori che non si meritano questa maglia, vuol dire che non stanno dando quanto devono dare per rispettare questa maglia pesante che è quella dell'Inter, quindi dovranno fare, penso, delle valutazioni. Ovviamente l'allenatore è il primo messo in causa in questa situazione, mi dispiace, perché è un bravo uomo, per me è un bravo allenatore. Ovviamente, come ha detto lui stesso un paio di mesi fa, era un grande allenatore da Inter. Ovviamente quando i risultati non ci sono più cambia la valutazione, ma questo è il calcio in generale. Però Seba, non puoi valutare un allenatore in funzione di un mese, in primo luogo. In secondo luogo in un grande club cosa succede? Che c'è il dirigente delegato che va in spogliatoio, gli fa un culo così ai giocatori, difende l'allenatore e dice questo sarà l'allenatore per l'anno prossimo, e i giocatori che si chiamano fuori, si tirano fuori, verranno valutati. In una grande società succede questo. All'Inter è un mese e mezzo che si parla di Conte, di Simeone, del ritorno di Mourinho, di chi vuoi tu. È chiaro che i giocatori sono i primi ad essere a tirarsi indietro, no? Sono d'accordo. Da questo punto di vista c'è poca chiarezza in questo momento per il futuro dell'allenatore. Penso che la società a questo punto a un certo punto essere molto chiaro e dire: la prossima stagione puntiamo, facciamo dell'altro piuttosto che. Su quello sono d'accordo, come sono d'accordo sul fatto che la società adesso è la società a dover entrare nello spogliatoio e dire ai propri giocatori di dare qualcosa in più per questo fine campionato, a prescindere dall'allenatore. Su quello sono completamente d'accordo. A te è mai capitato di avere due giorni liberi dopo una partita, un secondo tempo come quello di Firenze? Se ti è mai capitato, adesso io non ho una memoria così profonda per ricordarmelo, un secondo tempo come quello di Firenze dell'Inter? No, cioè, due giorni liberi dopo una partita così, assolutamente. Anzi, ci sono stati degli allenatori che ci mandavano in ritiro subito per far capire che comunque la prestazione è stata quella che è stata, come il secondo tempo di ieri contro la Fiorentina. Ma quindi se una società e un allenatore danno due giorni liberi, perché? Cioè, qual è la lettura? Evidentemente non è un problema fisico, è un problema mentale. Io vi do due numeri, perché tutti identificano nelle ultime cinque il momento di crisi dell'Inter. In realtà il momento di svolta negativo è stato Inter-Roma, che per l'Inter rappresentava la possibilità davvero di agguantare quel terzo posto, il posto in Champions. Da lì 8 punti in 8 partite, quindi la crisi è anche temporalmente molto più profonda delle ultime 4, delle ultime 5. È mentale. In quel momento lì ci credevano profondamente, le hanno prese, e quella fuoco che Pioli era riuscito ad accendere immediatamente si è spento. Certo, può essere letto anche, così. Anche visto gli scontri diretti, diciamo, tra club importanti, comunque alla fine i risultati ultimamente non sono arrivati. Io ho visto il derby, che ero allo stadio, avevo visto un Inter comunque, a parte i primi 20 minuti, che è stato un bel pezzo di partita, un'occasione dall'altra, da una e dall'altra parte. Io penso che l'Inter comunque aveva in mano questo derby e voleva dire tanto dal punto di vista psicologico. Essere agganciato al 97esimo comunque a livello psicologico è stato abbastanza pesante, penso. Quindi diciamo è una questione mentale, ma questo del resto si era capito. Io sì, a questo punto della stagione non penso che sia una questione fisica. Tutte le squadre sono allo stesso punto a livello fisico, chi più chi meno, comunque è una questione mentale. È una questione mentale che l'Inter a un certo punto ha un blocco e non riesce a fare quel pizzico di il salto di qualità per chiudere la partita o per mantenere la partita a favore dell'Inter. Sì, Seba, però hai due modi di reagire a quello che è successo nel derby: o reagisci in maniera cattiva, da grande squadra, da squadra vera che ci crede, oppure ti deprimi e giochi una schifezza di partita con quella di ieri. I primi 20 minuti dell'Inter a Firenze, fino al gol dell'1-0 della Fiorentina, sono stati 20 minuti in cui la squadra sembrava voler spaccare il mondo. Io non so, Seba, se condividi. Poi basta un gol e ti sgonfi. Sono d'accordo, ma questo non dipende più dal giocatore, dipende dagli uomini che hai comunque. Se hai dei guerrieri e della gente che è abituata a lottare, a sudare, a mangiare il pallone, questo non succede. Probabilmente, come è stato detto, prescindere dalle prestazioni di Icardi, che per me sta facendo comunque una grande stagione, l'ha dimostrato anche ieri, ha fatto 3 gol. In questa Inter, di questo momento, un vero leader, come poteva essere Zanetti, come poteva essere bravissimo. In un'altra Inter, bravissimo. C'erano dei leader in campo, a prescindere dalle parole, che comunque dimostravano con i fatti che comunque dovevano sudare per gli altri. In questo momento penso in questa Inter manca un po' questo leader che trasmette questa ai ragazzi. Non un po', tantissimo, perché l'Inter aveva dei leader in campo e con Mourinho aveva dei leader in panchina. È vero che con Mourinho, la società era Moratti, che metteva i soldi ed era presidente e si divertiva, e Mourinho che faceva tutto il resto. Certo, adesso l'Inter che cos'è? È un proprietario distante e ricco. È Ausilio che fa il suo lavoro con compiti, è stato rinnovato il contratto, ma con compiti non ben definiti. Manca un organigramma, manca una struttura societaria, manca qualcuno che si prenda le responsabilità di dire, di chiarire quello che succederà in futuro. Seba, chi vince il campionato francese? chi vince il campionato è una bella lotta, anche se ti devo dire, adesso stasera ci sarà il Monaco, che adesso c'è Paris Saint-Germain che ha 80, Monaco 77. Ma con una Monaco partita in meno. Che gioca con due partite in meno, sì. Se vince comunque aggancia Parigi. Io dal poco, insomma, sto vedendo un po', sarebbe giusto e logico che lo vincesse il Monaco quest'anno per quello che ha dimostrato e sta dimostrando anche in Champions League, per esempio, che è in semifinale, stanno facendo delle cose ma veramente. Ma la Juve deve belle. Avere paura, secondo te? Ma paura, è una semifinale di Champions League. Sarà sicuramente una bella partita, anche se, ripeto, per il Monaco andare a sbattere contro il muro Juventus non sarà semplice, però sai, è il fascino della Champions League, è la magia della Champions League, adesso che magari può succedere qualcosa. Ovviamente sulla carta lì per lì ti do favorita la Juventus, perché comunque ha dimostrato di essere una squadra compatta, molto forte e con un reparto difensivo straordinario. Sì, a sbattere contro il muro della Juve c'è il rischio di farsi male. Grazie Sebastian Frey. Ciao Seba. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Seba Frey. Insomma, abbiamo parlato quindi di questa disfatta, processo a quello che è successo ieri sera all'Inter. Esci da quei corpi, ma esci da quei corpi, non è possibile. Se cosa avrebbe detto Prisco? Chiamate un esorcista, sti giocatori sono un po' seduti dal demone del creme caramel, molli nelle gambe e molli nel cervello. Se non stiamo attenti, i tifosi cominceranno a fare la differenziata sui giocatori. Per forza sono dei bidoni. Ha preso bene l'avvocato, eh. Abbiamo, quindi noi abbiamo anche, è arrivata anche nell'aldilà, eh. È arrivata anche nell'aldilà. Ma non è possibile. Sì. BlaBlaCar potrebbe fare. Sì. Vabbè, Babacar potrebbe fare la Priostica nell'Oltrepò Pavese, e invece ci ha infilato due gol. È un grande giocatore Babacar. Vecino è il classico giocatore da Oveto di Pasqua, ci ha regalato non una ma due sorpresine. Ma non è possibile, ma cosa gli ha dato Pioli a questi giocatori? La dolce uchessina che fanno tutti i cani. Non si dicono quelle cose in paradiso. Sì, che mi perdoni il direttore, so che qua in paradiso certe frasi non vengono tollerate. Torniamo in un momento migliore. Sempre la stessa storia. Occhio per occhio, Inter perdente. Forza benissimo. Monaco, non ci resta che guffare. Non si può guffare dal paradiso. Rocco da Reggio Calabria. Ciao. Buonasera. Volevo fare una domanda, che io ho un dubbio che tra virgolette mi assomiglia da tutta la stagione. Secondo voi la rosa dell'Inter è effettivamente una rosa che poteva lottare per terzo, quarto posto? Sì. Oppure al di là dell'undici titolare in realtà non abbiamo un granché in panchina come cambi in determinati ruoli? Io credo che potesse lottare per il terzo e quarto posto con un'estate normale, senza gli errori di gestione tra Mancini e De Boer, senza regalare le prime 11 partite. Questa è una squadra che poi magari arrivava quarta ma poteva lottare per il terzo posto, a maggior ragione dopo l'arrivo di Gagliardini. Però è anche una squadra a cui non basta un mercato invece per lottare per il primo e secondo, serve molto di più. Sì, non basta un mercato, ci vuole, te lo ripeto, non la catena di destra o quella di sinistra, ma la catena di comando. Però mettere a posto la catena di destra e sinistra già sarebbe un passo avanti, perché quello il dubbio storico dell'Inter riguarda i terzini. Alessandro dalla provincia di Rimini. Sì, salve, buonasera. Senta, io invece ho un'altra considerazione ancora. Secondo me la stagione dell'Inter è ancora più fallimentare rispetto a quello che sembra, perché comunque in estate ci sono stati degli investimenti comunque importanti, mentre comunque la stagione Milan è più che dignitosa. Cioè, le due squadre stanno nella stessa posizione, però secondo me Montella ha fatto un miracolo, mentre comunque l'Inter paga errori sia di dirigenza e sia poi tecnici, quel casino che c'è stato tra Mancini, De Boer e tutto. Parlare di miracoli dopo la partita di oggi è dura. È vero che il Milan ha gestito una situazione complicata e lo ha fatto restando comunque attaccato al massimo risultato certamente possibile. Certamente vero che il Milan è molto più debole dell'Inter dal punto di vista dell'organico, su questo non ci piove. Però sull'idea che in mezzo c'è stato un mercato da 100 milioni, secondo me l'amico ha perfettamente ragione. Oggi l'Inter ha 5 punti in meno di quella di Mancini alla 33esima giornata dell'anno scorso e secondo me questo è un dato che deve far riflettere, perché ripeto, in mezzo c'è stato un milione e c'è stato un mercato da oltre 100 milioni e quindi c'è anche un campionato che corre di più. Anche il Milan 2 anni fa ha fatto un mercato da 100 milioni, eppure è lì da vedere. Allora, siamo nei secondi finali di Arsenal-Manchester City, che è la seconda semifinale dell'FA Cup. La prima l'ha vinta 4-2 il Chelsea di Antonio Conte contro il Tottenham. L'Arsenal conduce 2-1 sul Manchester City, mancano davvero pochi istanti. E poi ci sarà la certificazione che la finale sarà tra Arsenal e Chelsea. Saluto Carlo, che ritroverete domani. Ciao, dopo ragazzi, il GR delle 14. Domani, tutti convocati. E cioè noi ci fermiamo per un minuto. Quando torniamo apriamo una pagina che racconta del classico di questa sera e poi parliamo della tragedia che ha colpito il mondo del ciclismo e gettiamo un occhio verso il Gran Premio di Austin in Texas MotoGP questa sera. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto è finita Arsenal-Manchester City 2-1, decide un gol di Alexis Sanchez al minuto numero 100. Arsenal dunque che va in finale di FA Cup e sarà un derby tutto londinese contro il Chelsea di Conte. Così come questa sera c'è un derby tutto madrileno, perdonatemi, c'è il classico tra Real Madrid e Barcellona, che è più di un derby per la Spagna. È il derby di Spagna, ore 20:45 Fox Sport. Saluto Alvaro Vorrichetti, collega di Fox. Ciao Alvaro. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti. Classico che è una specie di finale di stagione, vale con la finale, credo più per il Barcellona in realtà, o forse solo per il Barcellona che insegue per una volta e ci arriva col fiato corto. Sì, sì, innanzitutto c'è da dire che la partita che ferma il mondo durante 90 minuti è il match dove la rivalità e la passione diventano lo spettacolo più grande del calcio, non c'è niente di simile, non c'è una partita che si possa paragonare a questo classico che si giocherà, come hai detto bene, a partire dalle 20:45 al Santiago Bernabéu. Il Real Madrid è la capolista in questo momento, ha più 3 sul Barça e con una partita in meno, quindi facciamo bene a considerare questo una finale sia per il Real Madrid in ottica vincere il titolo sia per il Barça in ottica rimanere ancora vivi per le 5 giornate che resteranno dopo questa partita seguita, pensate, da 650 milioni di spettatori in tutto il mondo, 185 paesi col segnale della partita, 38 camere 3D, 2 camere super slow dedicate a Messi e Cristiano Ronaldo. Insomma, è uno spettacolo che nessuno si può perdere. Sì, Messi che non segna al Real Madrid dal 2014, che è una notizia visto le medie che tiene solitamente. Ronaldo, l'abbiamo visto, si è risvegliato dopo un inverno in cui si è anche preso qualche pausa di riposo, 5 gol nei quarti di finale della Champions League, magari non tutti veri, qualcuno farlocco, qualcuno con l'aiutino, però insomma sono numeri che lasciano segno. Mi pare di aver capito che non gioca Neymar, questa è una notizia. Non gioca Neymar, dopo tutta la polemica che c'è stata con il TAD, con il Tribunale di Arbitraggio Sportivo, con i 1000 comunicati che si sono scambiati ieri tra il TAD e il Barça, alla fine il Barça non ha voluto rischiare, Neymar non è salito sull'aereo verso Madrid, quindi non ci sarà nella formazione di Luis Enrique. Il più probabile è che ci sia Paco Alcácer ad accompagnare Luis Suarez e appunto Leo Messi, che ha segnato 21 gol nei Clásicos. Non ha segnato, è vero, negli ultimi 6, ma rimane ancora il massimo marcatore nella storia dei Clásicos. Cristiano invece ha segnato questa stagione 31 gol finora, 19 in Liga, e contro il Barça ne ha segnati 16, quindi lo spettacolo anche in questa sfida, dentro della sfida di Cristiano e Messi, è sempre garantito in una partita del genere. Sì, sì, il fatto che alla fine Neymar non giochi credo sia un segnale di buon senso da parte del Barcellona e anche forse la conferma che queste sono partite che si preparano con i cosiddetti mind games, cioè raccontare fino a questa mattina che magari Neymar si sarebbe imbarcato comunque su quell'aereo per cercare di sfruttare un cavillo, sfidare la giustizia sportiva, alla fine è stata semplicemente una provocazione. Sì, possiamo dire che è stata sì una misura per, non so se per provocare o magari per caricare un po' l'ambiente nel prepartita. Comunque la dirigenza del Barça ci ha abituato già quest'anno a figuracce di questo tipo, ormai non aveva nessun senso dopo la sanzione di 3 partite, dopo aver visto il doppio giallo contro il Malaga e soprattutto dopo l'applauso nel confronto del quarto arbitro era difficile da capire come il Barça volesse andare a prendere la cautelare di questa sanzione. Comunque alla fine il buon senso ha fatto sì che Neymar rimanga a Barcellona, non ci sarà, e ovviamente sarà un'assenza molto molto pesante per il Barça. C'è da capire anche se cambieranno il modulo. Io mi auguro di vedere un Messi un po' più da trequartista che da centravanti. Vedremo alla fine come schiererà Luis Enrique una formazione in cui in questo momento, ribadisco, vedo Paco Alcácer a sostituire Neymar. Sì, io mi auguro di vedere un Luis Enrique con gli occhi un po' meno depressi di quello delle ultime settimane. Sì, ormai è l'ultimo classico per Luis Enrique, è vero che il primo per Zinedine Zidane al Santiago Bernabéu, ultimo classico invece per Luis Enrique, che ormai lo sanno già tutti, ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Barça, quindi se vogliamo anche per lui questa è una finale, forse la partita più importante che deve affrontare Luis Enrique, che deve ancora, va anche sottolineato, giocare la finale della Coppa del Re. Comunque un classico è un classico, lui ne ha vissuto tantissimi da giocatore e questa volta ovviamente vorrà anche vincere l'ultimo da allenatore, e in un campo come il Santiago Bernabéu, dove lui è sempre specialmente motivato, specialmente carico. Sì, c'è chi si dispiace per te, Alvaro, ma dice che stasera guarderà la Juventus, registrerà il moto mondiale, il classico lo vedrà in differita domani. Fate quello che volete, comunque questa sera insomma c'è davvero da perdersi sul divano. C'è la libertà di esatto, scelta, ma io ovviamente consiglio a tutti di seguirci, perché sarà una partita spettacolare. Noi partiamo un'ora prima, alle 19.45, con Francesco Guidolin e Cristian Chibu ad accompagnarmi in studio, e dal Santiago Bernabéu ci sarà Stefano Borghi accompagnato da Don Fabio Capello. Uno spettacolo di partita con uno spettacolo di studio pre-partita. Sì, che sta diventando uno specialista di classici raccontati, Don Fabio Capello. Prima di chiudere, poi abbiamo la pagina che riguarda prima il ciclismo e poi i motori. A proposito del Real Madrid, se c'è un motivo per cui il Real questa sera deve vincere il classico e poi potersi mettere tranquillo per affrontare l'altra salita, quella durissima con l'Atletico della semifinale. Assolutamente sì, il Real Madrid è praticamente sulla strada del doblete, questo è l'obiettivo di Zinedine Zidane. Pensate che in Liga sono 5 anni senza vincerla, quindi è una partita assolutamente fondamentale, e quindi in questo momento vietato pensare a niente che non sia il Barça, e quindi è una partita dove il Real Madrid può lanciarsi definitivamente verso il double, verso il doblete. Vedremo come andranno le cose a partire dalle 20.45. Grazie Alvaro. È stato un piacere, buonasera a tutti. Grazie Alvaro Borrichetti, questa sera Fox Sport, tra le tante scelte, 20.45 il classico tra Real Madrid e Barcellona, c'è anche il moto mondiale questa sera, e poi avremo il nostro Roberto Ungaro per fare il punto a meno di 2 ore dal via del Gran Premio di Austin in Texas, però vi vogliamo raccontare anche questa domenica di ciclismo. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Deve partire Michele, se vuole vincere siamo a 200 metri, deve partire ora, parte Geraint Thomas in questo momento. Adesso lo scatto di Michele Scarponi. Michele non si passa, Scarponi. Non si passa. Attenzione, Michele, non si passa Michele, non si passa Michele, Scarponi. È l'aquila di Filotrano davanti a Geraint Thomas. Con quel rapportone. Birds. Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a alzare le mani con la maglia della Astana. È stata una tappa difficile, dura, ma abbiamo vinto. Ho vinto, è una vittoria che dedico a tutta la Astana e ai miei bambini che ancora non mi hanno visto con le braccia alzate. Ce l'ho fatta. Birds. Insomma, oggi vi raccontiamo di Vincenzo Nibali, che ha vinto il Giro di Croazia e ha dedicato ovviamente la sua vittoria a Michele Scarponi, scomparso ieri. Insomma, avete sentito ieri, avete letto oggi su tutti i giornali. Poi c'è stata la Liegi-Bastogne-Liegi, il lungo applauso, il minuto di raccoglimento prima della partenza, poi la vittoria di Valverde, che è uno abituato a vincere, ma che l'ha dedicata a Michele Scarponi. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buona serata. Oggi il ciclismo in qualche modo ha dovuto rimettersi in movimento. È così, la vita va avanti tutto, va avanti anche il ciclismo, le corse, i corridori, sempre impegnati, sempre di corsa, però con il cuore pesante, come si suol dire, con un vuoto, profondo. Io credo che Valverde l'abbia dimostrato, i corridori tutti questa mattina alla partenza da Liegi hanno fatto un minuto di chiasso, perché questo è stato quello che ha chiesto Gianni Bugno, che è il presidente dell'Associazione Corridori Mondiali, e quello che ha chiesto Cristian Salvato, il presidente del Sindacato dei Corridori Italiani, e l'hanno chiesto al gran patron del Tour, il gran patron anche della Liegi Bastogliegi, l'ASO, che organizza questa corsa, hanno chiesto: lei faccia il ricordo di Michele, mentre una bellissima immagine, una foto gigante troneggiava a Liegi. E però dopo noi non volevamo fare un minuto di silenzio, perché a Michele non sarebbe piaciuto. A Michele piaceva l'allegria, piaceva il chiasso, piaceva il casino, diciamolo come. La verità è che poi quel chiasso che loro avevano chiesto a tutti i corridori si è trasformato semplicemente in un fragoroso applauso, lunghissimo, profondissimo, doloroso. Non si è fatto tanto chiasso, si è pianto. E ha pianto anche Alejandro Valverde alla fine della corsa, l'avete visto tutti, ha tagliato il traguardo con le dita al cielo, indicando quell'azzurro che è l'azzurro della maglia di Michele Scarponi, quella maglia che veste e vestirà per sempre, anche dentro una bara. E Alejandro Valverde l'ha voluto ricordare dicendo: era il mio amico, eravamo molto amici, quella corsa l'ha sempre amata, ci è arrivato molto vicino, perché ricordiamo che Michele Scarponi è stato un grande gregario, è stato anche un ottimo grande atleta. Vincitore, sì sì, è uno che ha vinto, certo, a tavolino, come diceva lui, a tavolino, da seduto, ma non da seduto, però bisogna arrivare secondi per poi approfittare, esatto, di queste vicende, a tavolino ma non da seduto, anche se correva in bicicletta un Giro d'Italia, ma ha fatto un quarto, un quinto, un settimo e un ottavo la Liegi Bastogliegi. Chi non sa di ciclismo deve sapere che la Liegi Bastogliegi insieme al Giro di Lombardia sono le corse di un giorno più dure al mondo. Sono gare che vanno, che hanno un'altimetria di 4.500-4.800 metri. Una tappa alpina è condensata nella Liegi o nel Giro di Lombardia. Quindi corsa vera, non per niente oggi Alejandro Valverde l'ha vista per la quarta volta. E chi è Alejandro Valverde? Uno dei più forti corridori del mondo, uno dei corridori spagnoli più forti di tutti i tempi, sicuramente uno degli interpreti più grandi della storia del ciclismo assoluto. Bene, questo corridore che oggi per la quarta volta ha maltrattato tutti, ha vinto con assoluta autorevolezza la Liegi Bastogliegi, appena tagliato il traguardo, quando l'Eurovisione, il giornalista di Eurosport, gli ha fatto la domanda sulla sua vittoria, lui ha detto: no, prima io vorrei dire una cosa, io questa vittoria la voglio dedicare a Michele Scarponi, perché era un mio amico, era il nostro amico. Questo premio, il premio che io ho vinto, il trofeo che io ho, lo porterò e sarà della famiglia Scarponi, lo porterò ad Anna, sua moglie. Questo è Alejandro Valverde, questo è il ciclismo, con un po' di retorica, una grande famiglia, ma è così, bisogna farsene una ragione. Il sì. Ciclismo è veramente una grandissima famiglia, basta vedere gli attestati di stima e di solidarietà che stanno arrivando da ogni angolo del mondo. Dal mondo sportivo devo dire che si sta comportando in maniera eccezionale, perché sta ricordando e riconoscendo a tutti gli effetti la grandezza di un uomo, di un professionista, ma soprattutto anche la bellezza di un ragazzo che ha portato in questi anni, in pochi anni, purtroppo solo 37, però allegria, spensieratezza e grande intelligenza. Sì, è una grande famiglia, ed è straziante poi scoprirlo in queste occasioni. Tante lacrime ci saranno anche tra qualche settimana al Giro d'Italia. Io non ho assolutamente dubbi che si trasformerà probabilmente, oltre che in una meravigliosa corsa, perché così vuole lo sport, così vuole la vita, e la legge che si deve andare avanti è una legge sacra, però sicuramente Pier Augusto si trasformerà anche in una lunghissima celebrazione di quello che è stato e di quello che avrebbe potuto essere. Abbiamo il traffico, io ti ringrazio, grazie Pier. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, e viva Michele. Grazie Pier Augusto Staggi, il traffico, poi facciamo un po' di motori. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Convocati. non aspettava stare primo, perché le due Yamaha, non lo so perché, quando mettono la morbida fanno pum. Quanto ci tieni domani a portare a casa la prima vittoria della stagione? Ho il primo podio, perché anche noi non abbiamo fatto nessun podio, così importante è sempre importante una vittoria. Comunque se si deve fare secondo o terzo meglio che una caduta, ma si deve rischiare, questo è chiaro. Questa era la prima vera qualifica dell'anno, perché nelle prime due gare è stato sempre bagnato, addirittura in Qatar non l'abbiamo fatta, quindi era importante vedere il mio potenziale nei 15 minuti. È molto importante partire in prima fila, perché comunque sembra che Marquez e Vinales hanno un passo un pochino meglio, però dietro anche Zarco e Pedrosa vanno forte, quindi stare lì è importante. Questi Marquez e Valentino Rossi ieri dopo le prove, il warm up, ha detto ad Austin: ancora Marquez più veloce, ancora Vinales secondo, Rossi lì vicino quarto, Roberto Ungaro ciao. Ciao Giovanni, sì, che, hai ragione. Che gara dobbiamo aspettarci? Ah, secondo me è una gara spettacolare fra i primi due che fanno un altro sport. Quindi Marquez e Vinales. Sì, come hai detto nel warm up di nuovo Marquez davanti, Vinales attaccato, 178 millesimi. Terzo Pedrosa, Valentino è vero che è quarto, però è un secondo e tre, è nettamente più lento di passo. Lorenzo, che aveva fatto sesto ieri sera, invece è tornato indietro, è dodicesimo, male anche Dovizioso, decimo, e Iannone undicesimo. Veramente fanno una gara a parte, Marquez e Vignales, abbiamo visto una Yamaha molto a posto, che è cresciuta, e quindi io mi aspetto fuoco e fiamme fra questi due spagnoli. Marquez insegue il primo podio, ma Vignales abbiamo visto che veramente non vuole mollare la presa, e quindi secondo me vedremo scintille e carenate fra questi due. Qualche scintilla l'abbiamo vista anche ieri durante le prove, sì. Anche tra Vignales e Valentino. Sì, però c'è da dire che Valentino non si era proprio accorto che alle sue spalle arrivasse Vignales. È stata incredibile però la reazione di Vignales, sembrava... voleva saltare giù dalla moto. Voleva saltare giù dalla moto in corsa, si è alzato come... Ma io l'ho detto e lo ripeto, Vignales non la manda a dire, è veramente determinato, ma anche le sue origini, cioè lui è uno, è abituato, è caliente, questo voglio dire, quindi lui non teme Valentino. E questa no, però è cosa io che lo dico, lo ripeto, se poi cominciano in mind games, solitamente non è svantaggiato Valentino Rossi, raramente li ha persi, no. Ha perso una volta, ma lì era un trappolone dal quale era impossibile uscire. Ma l'abbiamo detto, tra i due giganti, cioè Marquez e Vinales, il terzo godrà e Valentino, se è lì pronto ad aspettare, sicuramente da questa situazione ne può approfittare. Hai ragione a sottolinearlo ed è proprio così. Certo che Vinales non bisogna farlo scappare via in campionato, perché sennò diventa davvero difficile recuperare. Sentito prima Marquez dire: voglio fare il primo podio, bisogna stare davanti, bisogna rischiare. Una settimana fa tu avevi detto: o si sdraia o vince, e si è sdraiato. Esattamente, secondo me potrebbe valere anche qui questa regola, ma questa volta starà più attento. Ci sono tante buche e abbiamo visto la Honda più in crisi rispetto alla Yamaha, ma lui ci ha messo una pezza. Vederlo guidare qui è impressionante, fa davvero la differenza, è l'ennesima pole e non ci sarà da stupirsi se ci sarà l'ennesima vittoria di Marquez. Ma quello che dico è che Vinales non gliela darà facile, secondo me. E poi soprattutto Vinales si gira anche lui molto interno e interpreta le traiettorie a suo piacimento. Questo vuol dire che il sorpasso sarà facile fra i due, capisci? Hanno due stili diversi di guida, però non gira tondo, largo, su un'unica traiettoria come faceva Lorenzo con la Yamaha. Vinales può davvero interpretare la traiettoria e quindi il sorpasso lo può inventare ogni dove. Questo che potrà sorprendere Marquez, questo che darà battaglia. Sicuramente sarà spettacolo per noi. Dalla Ducati cosa dobbiamo attenderci? Ho letto stamattina sui giornali domenicali: non possiamo accontentarci del quinto e del sesto posto, però l'impressione è che la Ducati abbia quello come obiettivo in questo momento. Beh, poi calcola Giovanni che su questa pista ha sempre fatto podio, è uno dei tre circuiti dove Ducati è favorita, quindi vederla così indietro è inaspettato, è sicuramente un risultato sottotono. Quello che non capiamo bene è Dovizioso, che ha dei problemi ma rimane molto politico e non li dice, ma ha dei problemi perché ci si aspetta un Dovizioso più competitivo su questa pista in questo periodo. Lorenzo ieri ci ha un po' ingannato con questo sesto posto, sembrava aver trovato la retta via, ma hai visto che nel warm up è arretrato di nuovo, dodicesimo. Secondo me gara in salita, sia perché partono indietro ma non sono mai stati competitivi. A occhio nudo Lorenzo nei cambi di direzione è veramente molto lento e fa un altro sport Marquez, ma così anche Vignales. Si vede veramente la differenza a occhio nudo. Lo stesso Valentino, che ieri ha girato bene in qualifica, è stato abbastanza vicino, anche lui terzo, però nella guida si vede la differenza. Quegli altri due fanno davvero un altro sport. Intanto, se qualcuno vuole trarre qualche buon auspicio per il motociclismo italiano, in Moto3 ha appena vinto Romano Fenati, che non vinceva da un anno, no Roberto? Sì, sì, sappiamo che lui ha il potenziale, quello ce l'ha, è la testa che non è così costante, non ha mai, ha sempre dimostrato di avere tanta manetta, il problema è metterla a frutto la sua manetta, perché è un caratterino insomma un po' particolare, tu sappiamo tutti i problemi che ha avuto l'anno scorso nella gestione col team. E è un peccato perché butta via un talento che è davvero raro, perché Fenati sulla velocità pura è davvero molto, molto veloce, molto competitivo. Secondo me è un pilota che potrà esprimersi ancora meglio quando salirà di cilindrata, sia per la corporatura, per la stazza, per la sua forza, per il suo tipo di guida. Speriamo, sono in tanti nella Moto3 che potrebbero esserli davanti, per ora il risultato è sottotono dal punto di vista italiano, potremmo dire molto di più. E invece incrociamo le dita perché Morbidelli è una certezza, 2 su 2 nelle prime due gare, e questo è una speranza, anzi io direi una conferma, perché Morbidelli quest'anno deve proprio ambire solo una cosa, al titolo. Speriamo, grazie Roby, a domani. A te Giovanni, a domani. Grazie Roberto Ungaro, poi domani dopo le 15 torniamo su questa domenica di motori. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, particolarmente contenta oggi, Roberta Frisani, Andrea Roccabella, che si sono alternati in regia, le voci di Andro Mercù. Noi... Scusate, ma mi fate vedere il finale di partita. Capuano, è finito, ha vinto mi deve Lempoli far 2-1. Vedere, si parla di moto e qua io non so neanche il finale. Cribbio! È finito 2-1 per Lempoli. È finito, diamo una notizia. Milan-Empoli è finita, 2-1 per l'Empoli. Ma c'è il recupero? No, è finito anche il recupero. Come ci, no? Ci sentiamo domenica scandaloso, alle 17. Scandaloso, cribbio. Tutti convocati invece torna domani dopo il GR delle 14. Capuano, ciao. Basta. Fatti guardare la gente, di ciao e non beccare il casco.